Noi lo sappiamo e li bombardiamo, insomma, un divertimento unico. Questo sta il segno della medaglia d'oro, sempre da fascista. Un'altra. Tre mattine di fila, 22, 23 ed oggi 24, bombardato Cigica. È la città più importante dal punto di vista militare, perché è intorno a un campo trincerato e lì c'è tutto il materiale di guerra dei nostri nemici, sia del fronte somalo che eritreo. Quando vedevo le bombe scienziare le case, distruggere con voli di schegge, bestiame, sassi ed ossa e incendiare la cittadina in molti punti contemporaneamente, gioivo. Sempre lo stesso Antonio Locatelli, da cui è intitolata una via lì che sbuca in piazza Tarucci. Un'altra. Ti dirà tutto quello che è difficile scrivere. Qui si rivolge la moglie, però gli dice che un suo amico gli porta le notizie. Ti dirà della nostra vita. Ti mando attraverso lui 11 segni piccoli, 22, 23 fotografie e 31 piccole. Così sono sicuro che arriverà. Quella di Harar che brucia non deve uscire da casa nostra, perché qui siamo già alla fine della guerra d'Etiopia, si rendono conto e, crimini di guerra come minimo, insomma, ecco. Quindi, insomma, questi sono tre estratti di tre lettere che Antonio Locatelli, a cui è intitolata una via, appunto, ripeto, sbuca in piazza Canucci, manda a casa. Quindi, insomma, questo è il... Poi lui finalmente viene intercettato, cioè gli Arbegnoc attaccano il campo d'aviazione, lì insomma c'è il Simien, un altipiano insomma a 3000 metri, per questo molti gli etiopi sono fortissimi nelle lunghe distanze perché acquisiscono resistenza lì su questi altipiani. C'era questo campo d'aviazione, penetrano gli Arbegnoc e insomma Locatelli ci rimane, ennesima medaglia d'oro, eccetera, eccetera. Quindi,